Ad alta voce, Peppino Mazzotta legge La linea d'ombra di Joseph Conrad. Quando entrai in sala da pranzo, all'ora di colazione, ero ancora risentito dell'impudenza del direttore. Era lì, nell'esercizio delle sue funzioni. Sorvegliava i servitori cinesi. La colazione era apparecchiata solo a una cima della lunga tavola e i punka smuovevano l'aria calda pigramente in massima parte su un nudo deserto di legno lucido. Intorno alla tovaglia eravamo in quattro. Uno era lo sconosciuto che prima sonnecchiava nella poltrona. Teneva entrambi gli occhi parzialmente aperti adesso, ma sembravano non vedere nulla. Ciondolava. Vicino a lui, il personaggio dall'aria sostenuta, con corte basette e mento accuratamente sbarbato, era, naturalmente, Hamilton. Non ho mai visto nessuno così pieno di sostenutezza per la posizione che la provvidenza si è compiaciuta di assegnargli nella vita. Mi avevano riferito che mi considerava un volgare dilettante. Al rumore che feci tirando la sedia per sedermi, sollevò non solo gli occhi, ma anche le sopracciglia. Il capitano Gill era a capotavola. Scambiai con lui qualche parola di saluto e sedetti alla sua sinistra. Tarchiato e pallido, con la gran cupola lucente della sua fronte calva e gli occhi bruni sporgenti, tutto sembrava meno che un marinaio. Nessuno si sarebbe sorpreso nel sentirsi dire che era un architetto. A me, e so quanto è assurdo, faceva l'impressione di un fabbriciere. Aveva l'aspetto di un uomo dal quale si riceveranno assennati consigli, pareri morali, magari all'occasione l'aggiunta di un paio di luoghi comuni dettati non dal desiderio di far colpo, ma da sincera convinzione. Ben noto ed apprezzato nell'ambiente marittimo, egli non aveva tuttavia impiego fisso. Non lo voleva. Aveva una sua speciale posizione. Era un esperto. Un esperto in, come posso dire, in navigazione complicata. Aveva fama di saperne, più di ogni uomo vivente, su parti remote dell'arcipelago ed imperfettamente segnate sulle carte. Il suo cervello doveva essere un autentico magazzino di scogli, posizioni, rilevamenti, forme di promontori, profili di oscure coste e aspetti di innumerevoli isole, deserte e no. Una nave, ad esempio, in partenza per Palawan o per quei paraggi, prendeva a bordo il capitano Gill, in comando temporaneo, oppure per assistere il capitano. Si diceva che ricevesse uno stipendio fisso da una ricca compagnia cinese di navigazione a vapore in vista di eventuali servizi del genere. Inoltre, era sempre pronto a dare il cambio a chi voleva prendersi un po' di riposo a terra. Non si vide mai un armatore sollevare obiezioni a una simile combinazione, perché pareva fosse opinione comune, in porto, che il capitano Gill valesse quanto i migliori, se non un po' di più. Ma agli occhi di Hamilton era un dilettante. Credo che per Hamilton, nel termine generico di dilettante, fossimo compresi tutti quanti, anche se penso che dentro di sé facesse qualche distinzione. Non cercai di attaccare discorso col capitano Gill, che non avevo visto più di due volte in vita mia, ma naturalmente lui sapeva chi ero io. Dopo un po', chinando il testone lucido dalla mia parte, mi rivolse la parola per primo, con la cordialità che gli era abituale. Per il fatto di vedermi lì, disse, immaginava che ero venuto a terra per un paio di giorni di franchigia. Era uno che parlava a bassa voce. Parlai un poco più forte nel dire che no, avevo lasciato la nave per sempre. «Libero cittadino per un poco», osservò egli. «Credo di potermi definire così. Dalle 11», dissi. Thank you. Udendo le nostre voci, Hamilton aveva smesso di mangiare. Depose piano coltello e forchetta, si alzò e, borbottando qualche parola su questo caldo infernale che toglie l'appetito, uscì dalla sala. Lo udimmo andar via quasi subito e scendere i gradini della veranda. Allora il capitano Gilles commentò tranquillamente che di sicuro l'amico era uscito per cercare di avere il mio posto. Il capo cambusiere, che stava appoggiato alla parete, venne più vicino al tavolo con la sua faccia di capra infelice e ci parlò in tono lamentoso. L'argomento fu l'eterna lagnanza nei confronti di Hamilton. Per colpa dei suoi conti insoluti si trovava in continui guai con la capitaneria di porto. Egli pregava il cielo che ottenesse il mio posto, anche se, per la verità, che cosa ne avrebbe cavato? Un sollievo temporaneo nel migliore dei casi. Dissi: «Non state a pensarci, non otterrà il mio posto, il mio successore è già a bordo». Rimase sorpreso e credo che a quella notizia si immusonisse un poco. Il capitano Gilles rise piano. Ci alzammo e uscimmo sulla veranda, lasciando il ciondolante sconosciuto alle cure dei cinesi. Vidi, per ultima cosa, che gli avevano posato un piatto con una fetta di ananas e si erano ritirati di qualche passo, stando a guardare che cosa succedeva. Ma l'esperimento ebbe esito negativo. Rimase insensibile. Il capitano Gilles mi confidò, a bassa voce, che era un ufficiale del panfilo di un rajah, giunto nel nostro porto per entrare in bacino di carenaggio. «Doveva essersi dato alla bella vita la notte scorsa», aggiunse, arricciando il naso con un'aria di intimità e di confidenza che mi fece un immenso piacere. Perché il capitano Gilles godeva di prestigio. Gli si attribuivano avventure meravigliose e una misteriosa tragedia nella sua vita. E nessuno poteva dire una sola parola contro di lui. Continuò: «Ricordo quando sbarcò qui per la prima volta alcuni anni fa. Era un bel ragazzo. Oh, questi bei ragazzi!» Non potei trattenere una risata. Parve interdetto. Poi rise anche lui. «No, no, non dicevo questo», esclamò. «Dicevo che alcuni di loro, qua giù, si rammolliscono troppo in fretta». Scherzando, suggerì come causa prima il caldo bestiale. Ma il capitano Gilles si dimostrò padrone di una filosofia più profonda. Là, in Oriente, il bianco aveva la vita facile. Benissimo, ma il difficile stava nel rimanere un bianco, ed alcuni di codesti bei ragazzi non ci riuscivano. Mi diede un'occhiata penetrante e, in tono benigno, quasi paterno, mi chiese a bruciapelo: «Perché avete lasciato l'imbarco?» Mi arrabbiai di colpo. Potete ben capire come fosse esasperante la domanda per uno che non sapeva neanche lui come rispondere. Tra me decisi di tappare la bocca a quel moralista e a voce alta gli dissi con insolente cortesia: «Perché? Disapprovate?» Rimase troppo sconcertato per fare altro che mormorare con aria confusa: «Io? In linea di massima...» E poi mi lasciò stare. Ma si ritirò in buon ordine, proteggendosi con la battuta piuttosto goffa che anche lui stava rammollendosi e che a quell'ora, quando era a terra, faceva una piccola siesta. Pessima abitudine, pessima abitudine. Il candore di quell'uomo avrebbe disarmato anche una suscettibilità più giovanile della mia. Perciò, il giorno dopo, a colazione, quando chinò il capo dalla mia parte e disse di aver incontrato il mio ex capitano la sera prima, aggiungendo sottovoce: «Gli dispiace molto che siate andato via, non ha mai avuto un secondo che gli andasse così bene», gli risposi con sincerità, senza ombra di affettazione, che certamente non ero mai stato così bene su nessun'altra nave e con nessun altro comandante in tutta la mia vita di mare. «Ma allora», mormorò, «non ve l'hanno detto, capitano Gilles, che intendo tornare in patria?» «Sì», disse, «una cosa simile me l'hanno detta tante volte in passato». «E con ciò?» esclamai. Lo giudicavo l'uomo più ottuso e privo di immaginazione che avessi mai incontrato. Non so che cosa avrei ancora aggiunto, ma proprio allora entrò Hamilton, in gran ritardo, e prese il suo solito posto. Perciò abbassai la voce e borbottai: «Questa volta, però, la vedrete anche fare. Hamilton, magnificamente sbarbato, rivolse col capo al capitano Gill un secco cenno di saluto, ma non accondiscese nemmeno a sollevare le sopracciglia al mio indirizzo. E quando aprì bocca, fu solo per dire al capo cambusiere che a un signore non si doveva servire una vivanda come quella che stava sul suo piatto. L'interpellato parve troppo infelice per avere la forza di gemere. Alzò soltanto gli occhi al punk e fu tutto. Il capitano Gill e io ci alzammo da tavola e lo sconosciuto che sedeva vicino a Hamilton seguì il nostro esempio, manovrando con difficoltà per levarsi in piedi. Povero diavolo. Aveva fatto il possibile per mettere in bocca un po' di quell'indegno cibo, non perché avesse fame, ma credo veramente con l'unico scopo di ritrovare il suo amor proprio. Ma dopo aver lasciato ricadere due volte la forchetta ed essersi trovato battuto su tutta la linea, era rimasto seduto, immobile, con aria di intensa mortificazione ed uno spaventoso sguardo imbambolato. A tavola, Gil e io avevamo entrambi evitato di guardare dalla sua parte. Sulla veranda si fermò di colpo per rivolgerci in tono ansioso un lungo discorso di cui io non riuscii a capire assolutamente nulla. Sembrava parlasse in un'orribile lingua sconosciuta. Ma quando il capitano Gil, dopo un solo attimo di riflessione, gli rispose «Certo, come no? Avete proprio ragione!» egli sembrò davvero molto soddisfatto e ci lasciò, camminando dritto oltretutto, per raggiungere una poltrona a sdraio un po' più lontano. «Ma che cosa cercava di dire?» chiesi disgustato. «Non lo so. Non bisogna mai infierire contro il prossimo. Si sente già abbastanza infelice, statene certo. E si sentirà ancora peggio domani.» A giudicare dall'aspetto, ciò non pareva possibile. Mi chiesi quale complicato stravizio lo avesse ridotto in quell'indicibile stato. La benevolenza del capitano Gill era guastata da una curiosa aria di compiacimento che mi diede fastidio. Dissi con un risolino: «Beh, ci siete voi ad assisterlo.» Fece un gesto come per respingere quell'idea, sedette e prese un giornale. Io feci altrettanto. I giornali erano vecchi e poco interessanti, per lo più pieni di monotone e stereotipate descrizioni delle celebrazioni per il primo giubileo della regina Vittoria. Probabilmente non avremmo tardato a scivolare in un tipico sonnellino pomeridiano tropicale se dalla sala da pranzo non si fosse alzata la voce di Hamilton, che stava terminando di fare colazione. Le grandi porte a due vani rimanevano sempre spalancate, e quello non poteva sapere che eravamo seduti così vicini alla soglia. Lo si udì rispondere ad alta voce e con arroganza a qualcosa che si era arrischiato a dirgli il capo cambusiere. «Non intendo essere forzato a fare alcunché. Saranno ben felici di assumere un gentiluomo, immagino. Non c'è fretta.» Seguì un forte bisbigliare del cambusiere e poi si udì di nuovo Hamilton ancora più sprezzante. «Che? Quel giovane somaro che pensa di essere chissà chi perché è stato così a lungo primo ufficiale di Kent? Assurdo!» Gilles e io ci guardammo. Dato che Kent era il nome del mio ex comandante, il bisbiglio del capitano Gilles «parla di voi» mi sembrò fiato sprecato. Il capo cambusiere doveva aver insistito sul suo punto di vista, quale che fosse, poiché Hamilton parlò nuovamente, con maggiore arroganza, se possibile, e inoltre con molta enfasi. «Sciocchezze, egregio signore! Non si è in concorrenza con un volgare dilettante come quello. C'è tempo!» Poi, nella vicina sala, si sentì il rumore di sedie smosse, passi e lamentose rimostranze da parte del cambusiere che inseguiva Hamilton fino all'aperto attraverso l'ingresso principale. «Che insolente!» commentò il capitano Gilles. Il che era superfluo, a mio parere. «Molto insolente! Non vi è mica capitato di offenderlo, no?» «Mai parlato con lui in vita mia», dissi imbronciato. «Non capisco perché parla di concorrenza. Ha tentato di avere il mio posto dopo che me ne sono andato e non lo ha avuto. Ma questo sarebbe inesatto chiamarla concorrenza». Il capitano Gilles tentennò pensoso il suo testone benevolo. «Non lo ha avuto», ripetei molto adagio. «No. E non era nemmeno probabile con Kent. Kent è dispiaciutissimo che lo abbiate lasciato. E dice anche che siete un buon marinaio». Buttai il giornale che tenevo ancora in mano. Mi rizzai a sedere, picchiai il tavolo con la palma aperta. Volevo sapere perché continuava a toccare quella che era una mia faccenda strettamente personale. Era una cosa davvero esasperante. Il capitano Gilles mi fece tacere con la perfetta tranquillità del suo sguardo. «Nulla che possa seccarvi», mormorò con tono ragionevole, evidentemente desideroso di placare l'infantile irritazione che aveva provocata. E davvero era di aspetto così inoffensivo che feci del mio meglio per spiegarmi. Gli dissi che non volevo più sentir parlare di ciò che era morto e sepolto. Molto bello finché era durato, ma adesso che era finito preferivo non parlarne e nemmeno pensarci. Avevo deciso di tornare in Inghilterra. Ascoltò l'intera tirata in un atteggiamento particolare, quasi tendendo l'orecchio, come cercando di individuare un'eventuale nota falsa. Poi si tirò su nella sedia e parve ponderare attentamente la questione. «Sì, mi diceste infatti che volevate tornare in Inghilterra. Qualcosa in vista, laggiù?» Invece di rispondergli che non erano affari suoi, dissi rannuvolato: «Nulla che io sappia». Effettivamente, avevo già considerato quel lato piuttosto nebuloso della situazione che mi ero creata col lasciare all'improvviso il mio più che soddisfacente impiego. E non ero troppo entusiasta. Mi venne sulla punta della lingua la voglia di dirgli che il buon senso non aveva nulla a che vedere col mio gesto e che quindi questo non meritava l'interesse che pareva dedicargli il capitano Gilles. Ma ora egli tirava boccate da una pipetta di radica e pareva così candido, ottuso e banale, che non valeva la pena di stare a disturbarlo, né con la verità, né col sarcasmo. Emise uno sbuffo di fumo, poi mi colse di sorpresa con un brusco «Già preso il biglietto?». Sopraffatto dalla sfacciata insistenza di un uomo al quale non era troppo facile usare uno sgarbo, risposi, con esagerata docilità, che non lo avevo ancora preso. Pensavo che avrei avuto tempo a sufficienza per farlo l'indomani. Ero sul punto di voltarmi e andarmene, per sottrarre la mia privata esistenza ai suoi fatui e vani sforzi visaggiarne la sostanza, quando egli mise giù la pipa con un gesto estremamente significativo, sapete, come se si fosse giunti al punto critico, e si chinò di fianco, dall'altra parte del tavolino che ci divideva. «Oh, non lo avete ancora fatto?» abbassò la voce con mistero. «Beh, allora penso dobbiate proprio sapere che qui sta avvenendo qualche cosa».